Sarebbe stata Ruby Tuesday, perché oggi è martedì, e Tuesday però... in inglese vuol dire giovedì. No, vuol dire martedì. Eravamo sul pezzo. I Rolling Stones noi non li conosciamo. No, tu non conosci neanche i Beatles. Tu invece solo i Beatles. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Bentornati e chiedo asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Ehi, tocca a te. No, dai, ti prego, no. Dai, prima iniziamo, prima finiamo. No, mi vergogno, Drago. Dai, niente vergogna, dai. Wunderwaffer, allegria e wunderscherzi, è arrivato. Dai, un po' di entusiasmo. Wunderwaffer, allegria e wunderscherzi, è arrivato il carnevale delle valli alpine. Colleziona i wunderpunti, chiama il centralino e scegli il tuo scherzo. Chissà quanti ne abbiamo noi. Per 100 wunderpunti, ma per 100 wunderpunti potrai farle capitare direttamente a casa di qualche tuo amico, a sua totale ed irrimediabile insaputa, un gigawaffer o una finta cialda dall'interno in ottone laminato. Però la finta cialda è da bastardi. Cos'è la finta cialda? Wunderscherzi a palate con 750 punti regala un camion di nocciole avariate. E con 1000 wunderpunti fai collocare dai nostri tecnici esperti una mucca dall'intestino loquace nell'ascensore del palazzo di fronte. Ma dai, ma chi è che inventa ste cazzate, Drago? Ma io non lo so. Mi sa che noi al massimo arriviamo, K, ai 750 punti. Ho controllato, quindi 750 punti sono le nocciole avariate. Non so, ti piacciono? Non so. Sì, continuiamo qui. Secondo me, le nocciole avariate sono le stesse del wafer. Ma senti. No, perché insomma, se fossero avariate quelle dei wafer, dovrebbero scriverlo sull'etichetta. Tipo nocciole avariate minimo 12%. Sono obbligati, poi sarebbe tutta schiettezza, quindi. Cioè, poi gli suonano la porta in asse e dicono complimenti per la schiettezza. E per la schifezza anche, vero? Drago. K, che c'è? Faceva schifo. Ma cosa, il wafer o la battuta? Ma tutto, Drago, tutto. Vabbè, ma senti, ma quante scatole ci sono ancora lì da finire? Non lo so, contale. Wunderwaffer. Oggi è martedì grasso. Da non confondersi con Aldo. E con Piero. Sì, con tanti altri. Con tanti altri. Noi ci adeguiamo quindi alla ricorrenza parlando di attualità. Che martedì bello. Grasso, ci addentriamo in un nuovo spinoso argomento, l'obesità. Ma no, ma è nuovo, ma scusa, ma come l'argomento di mangiare con le mani? Vabbè, così, il problema obesità, martedì grasso, scusa, il problema obesità sta andando a incidere anche sulla vita di coloro che non sono direttamente interessati. Questo è l'ultimo carnevale, cari bambini, che potremo passare rimpinzandoci spensieratamente di frappe e caramelle. Di frappe. Sì, le chiacchiere. Frappè. Le bugie. No, le frappe sono le chiacchiere, le bugie. Pensavo avessi dimenticato l'accento. No, sono quei dolcetti che si fanno a carnevale. Come si chiamano qui a Milano? Le chiacchiere. Dipende di dove sei. Ciciaremin, cicinin. Ecco, dalle mie parti si chiamano bugie invece, che è poi un sinonimo di chiacchiere, se vai a vedere. No? Ma insomma. Comunque, tra poco, così pare, lo zucchero verrà tassato. Tassato, vabbè. È il nuovo nemico pubblico numero uno, insieme all'alcol e al tabacco, perché genera obesità. E lo dice. No. No, è quello Super Mario, non ha voluto mettere becco. It's me, Mario! Giocare. Forza. Su, su. Crescere. Giù, giù. Sotto. Rischio di default. Rischio di default. Il sindacato. Togliersi. La Svizzera. Togliersi. La signora Merkel. Demonio. Anche i videogiochi verranno super tassati, K, compreso questo di Super Mario cui abbiamo appena giocato. Super Mario tassa se stesso. Lui tassa tutto e tutti, non si ferma davanti a niente. Quindi... Va bene lo zucchero, l'alcol, il tabacco, bene, ma perché tassare i videogiochi? Perché i videogiochi violenti provocano bullismo e obesità. Ma ancora quest'obesità! I bambini che stanno davanti ai videogiochi ingrassano perché non si muovono. Mentre giocano mangiano schifezze piene di zucchero, alcol e tabacco e venere. Cioè, da soli. Sì, in un panino, come il panino di Elvis con dentro lo scoiattolo. Esatto, quando i videogiochi saranno tassati, quindi i problemi cominceranno per tutte le famiglie. Queste le riforme della sanità. Sono riforme della sanità queste, capito? Tassi il videogioco per avere meno grassi. Comunque sempre meglio che in America, dove sui giornali stanno uscendo delle foto in bianco e nero di bambini obesi tristissimi. Tristissimi, sì. Con la scritta ecco dei bambini che molto probabilmente non sopravviveranno ai loro genitori. La Madonna, è così. Qui siamo al terrorismo. Ma infatti sono insorti tutti contro sta specie di augurio di morte per chi è sovrappeso. E poi insomma, se prendiamo obesi famosi come Bud Spencer o Giuliano Ferrara, io credo che loro siano sopravvissuti ai loro genitori, visto che hanno rispettivamente 82 e 60 anni. E quindi? E quindi, non so, controcampagna con Bud Spencer e Giuliano Ferrara in un tour americano pro obesità, si riempiono di würstel, panini, hamburger, tutte quelle robe americane. Cane che fanno male, compreso le frittelle, vabbè, come si chiamano sausages. E ora, bambini, ricreazione. Dichiaro aperta la riunione della società Negroni. Ecco, allora, durante l'ultima riunione avevamo deciso che le elezioni per il capo della società dovevano essere rifatte. Rifatte? Sì, rifatte, Gildo. Quindi tu per ora non puoi fare il capo, no? E allora perché non lo escludiamo direttamente? No, perché bisogna salvare le apparenze, no? Le apparenze! Vabbù. Allora, stavolta facciamo una conta e chi esce comanda, no? Anche se è Gildo. La conta! La conta, la conta! La conta. Allora, prima di tutto, perché va organizzata la conta, dobbiamo decidere quale conta si fa, perché... Allora, ambarabacci cicocco o un bebè cicutini cicutè? Ma che dici, Albert? Abbiamo una conta, no? C'è anche i pipi ripete nuse. Ma che? Cicuti cicutè. E qui per le bette nuse, ma che? Che dici? Questa è una lingua ostrogota. Ma che ostrogota? Pipi ripete nuse, pipi ripete pam. Tuo, capito? Questo è un esempio. Ma allora facciamo una conta in napoletano così noi non capiamo. E noi ci vogliono sottotitoli per noi due. Uè, Albè, non offendiamo, La tradizione napoletana è una tradizione nobile. Vabbè, ragazzi, diamoci una mossa, dai. Allora, facciamo una conta qualsiasi. Vai. Uè, uè. Ciao, ambarabacci, cicocò. Tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Alt! È mica finita. Che ha Ma non è mica finita! State... Il dottore si ammalò. Ambarabà cicicocò. No! Ma no! Ha vinto di nuovo Gildo! Gildo capo! Gildo è capo, Qui il destino è contro di noi, Joris. Sono il capo! Sì, Gildo, allora, tu sei a capo della Negroni, società segreta, no? No! Te ne stai rendendo conto, Gildo! Gildo! Ma questo è proprio scemo! È proprio terrore! Zitto, Gildo, dai, sei il capo almeno! Oh, ho detto terrone! Ma no, ho detto torrone! Lui viene dalla... l'immagine del torrone viene dalla bassa, no? Tutte robe che... si incastrano nei denti, il torrone, no? Torrone! Hai sentito? Torrone, no? Torrone! Vabbè, va! Quindi l'altra volta l'ordine del giorno era la pasta asciutta! E oggi è il torrone! Sembrerebbe di sì, cioè, Gildo, è così? Così? Gildo, tu sei il capo! Cioè, se io ti interrogo, tu devi dare un'affermazione, no? Cioè, devi imparare a comunicare con i tuoi inferiori, che siamo io e Iori. Inferiori! Sì, che poi, allora, dire inferiori parlando con te, francamente, Gildo, mi viene abbastanza da ridere. Ho anche da piangere. Però questa è la democrazia? Allora, capo, ordine del giorno? Ma che dici? Niente, Joris, guarda, qui le elezioni sono di nuovo da invalidare. Ma che invalidi ormai? L'invalido ce l'abbiamo come capo, Albert! Ok, Gildo, abbiamo capito. Questo era l'ordine del giorno? Ordine del giorno! Ok, uè. Joris, era l'ordine del giorno, cioè. Allora, l'ordine del giorno abbiamo detto? Senza neanche pasta asciutta, cioè. Vai col blues, Drago! Bravo, vai avanti con il piano! Così, perché è martedì! Quindi non so, un giorno come gli altri! Bisogna pagare l'IVA! E oggi? La settimana scorsa, quando era? No, aspetta, 16. se volete domani pagare l'IVA su Facebook, ecco, ci sono dei video che vi insegnano come fare. Sì, fai un F24, poi? E poi lo spedisci alla banca. Con la password per l'inoltro, la password per l'autorizzazione, poi la password per la spedizione. Ne dimentichi una, non parte l'F24 e due anni dopo arriva una lettera dall'Agenzia delle Entrate che dice: lei deve 7.000 euro all'erario perché ha dimenticato di dire ok all'ultima conferma della home banking. Home banking.